2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 29 giugno 2013. Abbiamo molti argomenti anche questa settimana. Siete all'ascolto di 2024 su Radio 24, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di capire con i nostri esperti come la tecnologia ci cambia la vita. La settimana scorsa vi ho anticipato e vi avevo detto che siamo stati con i nostri microfoni a Le Bourget, vecchio aeroporto parigino molto vicino al Charles de Gaulle, il grande aeroporto di Parigi, dove si è tenuto uno degli show aeronautici, aerospaziali più importanti in Europa sicuramente, ma nel mondo, il Paris Air Show. Abbiamo incontrato alcuni protagonisti dell'industria italiana, dell'industria internazionale. E in questa puntata vi facciamo ascoltare le loro voci anche per capire come sta cambiando il settore, quali sono le tecnologie e le tendenze di questo settore. Iniziamo da un aspetto molto importante, essenziale sia per gli aerei che per gli elicotteri, e parleremo tra poco anche di elicotteri. Partiamo dai motori. In Italia esiste un'azienda leader nel mondo nella produzione di motori, si chiama Avio. È leader anche nel settore aerospaziale, non a caso buona parte, quasi la totalità del nuovo lanciatore europeo Vega, che serve per mettere in orbita bassa satelliti di piccole e medie dimensioni, viene prodotto in Italia dalla Avio. Abbiamo parlato dell'evoluzione tecnologica e del mercato con l'amministratore delegato di Avio, Francesco Caio. Ma innanzitutto conviene ricordare che questa è una tecnologia che opera in un mercato in crescita, dove quindi ancora molti investimenti vengono fatti per spingere le frontiere tecnologiche in avanti. Direi due elementi che caratterizzano questo show, dove ancora una volta sono state messe in evidenza un po' le sfide tecnologiche. Uno è energia, quindi efficienza, quindi vuol dire nuovi materiali, nuove architetture di motori che portano a dei risparmi consistenti di carburante. E il secondo è quello più generalmente detto, l'impatto acustico ambientale, quindi che cosa questo significa in termini ancora una volta di aerodinamica, uso di materiali compositi avanzati, architetture in generale. Dal punto di vista architetturale, diciamo, anche nelle specifiche più intrinseche del motore, sta cambiando qualche cosa o di fatto il motore è sempre quello che noi conosciamo già da anni? Ma guardi, Avio è impegnata in prima persona in un cambio importante di architettura. Fino a oggi il motore, diciamolo per gli ascoltatori meno vicini a queste tecnologie, girava a una sola velocità, la turbina e la parte, diciamo, di elica inclusa nel jet. La nuova architettura consente di separare queste due velocità, per cui si trovano le velocità ottimali per ogni componente del motore. Questo porta a un fortissimo salto sul risparmio e sull'impatto acustico. Questo si fa attraverso quella che viene detta una scatola di riduzione, ingranaggi per intenderci, in cui Avio è molto forte, che appunto consentono di introdurre nello stesso motore diverse velocità di rotazione. Questi motori sono già disponibili? Sono annunciati dalla Pratt & Whitney in fase di test, equipaggeranno il nuovo Airbus 320 e rappresentano probabilmente una delle novità più importanti annunciate in questo show. Voi siete molto forti anche nella parte spaziale e vi occupate anche in quel caso di motori, ma non solo di motori. In quel campo che cosa sta cambiando? Ma direi che Vega ancora qui rappresenta un po' il simbolo dell'innovazione, siamo felici di portarlo come sistema Italia alle Bourget. È ancora una volta la ricerca di materiali e di architetture che diminuiscano il peso di ciò che serve per spingere la macchina, aumentando lo spazio disponibile per i passeggeri, che nel caso dello spazio sono i satelliti. Quindi noi abbiamo l'utilizzo di fibra di carbonio per le strutture, un utilizzo sempre maggiore di carburante solido, che è quello più efficiente, e ancora una volta l'uso di elettronica e di sistemi digitali per ottimizzare le missioni di questi vettori. quando parliamo di carburante solido facciamo riferimento a un carburante che effettivamente è proprio solido. Sono delle paste chimiche che, in cui Avio è specializzata insieme ad altri concorrenti sia in Europa, soprattutto direi in Europa, in cui l'Italia gioca una parte importante, che consentono una rapidissima accelerazione del vettore al lancio e che hanno un enorme vantaggio anche in termini di gestione a terra della sicurezza e dell'impatto ambientale. Nel campo dei motori per aerei il mercato sostiene l'evoluzione, giusto? Sicuramente sì, anzi, io lo dico sempre ai miei colleghi e a chi interagisce con Avio, privilegiati ad operare in un settore dove la domanda è in forte crescita sia in Europa che nei mercati emergenti. Ecco, invece nel settore aerospaziale è il pubblico solamente, quindi gli stati, nel caso europeo, insomma l'Unione Europea, o esiste un nascente mercato anche privato e c'è un po' di spazio anche in questo campo? Ci sarà un crescente spazio nel mercato cosiddetto privato, anche con i satelliti a bassa orbita. Più strumenti digitali utilizziamo noi sulla Terra, dagli smartphone ai GPS, più c'è bisogno di capacità di governo del satellite a bassa orbita. Ovviamente è un settore, come diceva lei, fortemente sinergico all'investimento pubblico, Vegan è un esempio, ma che ha nella sua missione, nella sua strategia, un progressivo ruolo del mercato commerciale. Le faccio una domanda sul settore aerospaziale e sulla componente strategica. Perché è importante per una nazione, e quindi poi qui veniamo poi anche al tema dell'industria e di dove questa industria si trova, nel caso di Avio in Italia, perché è strategico? Perché uno potrebbe dire, ci sono competenze e tecnologie in altri paesi, possiamo pagando utilizzare quelle tecnologie. Lasciamo un attimo gli aspetti di difesa, dove diciamo sono la cosa è abbastanza ovvia. Ma in generale questo è stato un settore dove la frontiera tecnologica ha sempre posto delle sfide tali che richiedevano degli investimenti sia a livello industriale che a livello universitario che a livello di formazione, tale per cui la presenza in questo settore è fonte di ricadute industriali anche con impieghi ovviamente civili ma anche in altri settori. E direi che gli Stati Uniti sono l'esempio ancora paradigmatico della corsa allo spazio che ha poi generato la Silicon Valley. Ecco, mutatis mutandis, l'aerospazio ha ancora una funzione di rompere delle barriere di sviluppo e di creare un ambiente fertile per l'innovazione e anche per una nuova visione del manufacturing, della produzione. Quindi mantenere su un territorio queste competenze significa dare a quel territorio una prospettiva di sviluppo. Voi che siete un'azienda che non fa parte del più importante gruppo italiano, potete sicuramente dare una visione, un parere ai nostri ascoltatori sullo stato di salute di questo settore in Italia, che è fatto sì di grandi aziende ma anche di moltissime piccole aziende che fanno parte del cosiddetto indotto. Qual è il vostro giudizio? Nelle cose dove l'Italia eccelle, e scusi la tautologia, ma è un po' qui secondo noi la risposta. Non si può più competere su tutti i fronti, ma l'Italia è un protagonista della filiera aerospaziale in alcuni settori. Avio nelle trasmissioni e nelle turbine di bassa pressione o nello spazio sui lanciatori di orbita bassa. E altre realtà industriali, anche nell'ambito del più importante gruppo, cioè la Finmeccanica, ci sono dei settori di vera eccellenza. È chiaro che con gli investimenti necessari a competere nel futuro ci si deve specializzare e se l'Italia saprà specializzarsi e scommettere sui settori vincenti, gestendo con serenità i settori dove forse il treno un po' l'abbiamo perso, abbiamo la possibilità di continuare a essere leader. Dai motori per jet, dai motori per lanciatori spaziali, a proposito di eccellenze della nostra industria, passiamo i velivoli che vengono mossi da questi motori. Anche in questo campo ci sono aziende, soprattutto una grande azienda in Italia che esprime grande tecnologia ad altissimo livello. Parliamo di Alenia Aermacchi. La produzione in questo settore avviene principalmente attraverso partnership e joint venture, sia nel settore civile per gli aerei che ci trasportano, sia nel settore militare. Abbiamo parlato dell'evoluzione anche di questo settore con Giuseppe Giordo, che è l'amministratore delegato di Alenia Aermacchi. Sicuramente nel campo dell'aviazione commerciale le tecnologie che si stanno più sviluppando sono quelle in relazione ai minori consumi di carburante, a minori inquinamenti ambientali e a minori costi operativi degli aerei, che potranno comportare quindi minori costi anche per i passeggeri. Nel campo dei velivoli non pilotati stiamo sviluppando molte tecnologie, perché riteniamo che il futuro dell'aeronautica in qualche modo sia anche legato a velivoli che possano volare senza il fattore umano, senza il pilota. E infine nel campo della simulazione si tende sempre di più a simulare il volo per rendere poi i piloti, quando volano, più preparati senza farli volare. Quali sono principalmente i vantaggi di un aereo che non ha il pilota? Che cosa può fare anche di più questo aereo? Beh, prima di tutto un aereo senza pilota può volare per molto più tempo rispetto a un aereo che deve essere pilotato da una persona. In secondo luogo, per certi tipi di missioni non si vuole avere il rischio in qualche modo di perdere il pilota, quindi di perdere la persona che porta l'aereo. In terzo luogo assicura un costante collegamento tra il mezzo che vola e la terra attraverso degli strumenti di comunicazione in tempo reale che nessun uomo potrebbe mai assicurare. Senta, lei pensa che in ambito, dividiamo, diciamo, ambito militare, poi vediamo nell'ambito civile cosa potrà accadere. In ambito militare gli aerei del futuro, quindi diciamo, voi siete impegnati nel programma Eurofighter, nel futuro non ci sarà più un Eurofighter pilotato da un pilota, ma gli aerei saranno tutti automatici? Io credo che nel futuro, e quando parliamo del futuro dell'aeronautica, evidentemente cominciamo a parlare alla fine del 2020, sicuramente molte missioni che in questo momento vengono svolte da velivoli come l'Eurofighter piuttosto che velivoli come l'F-35 saranno svolte da velivoli senza pilota, che potranno operare in aree di rischio senza far rischiare la vita al pilota che li conduce. Nel campo civile invece? Nel campo civile è più problematico, sicuramente il trasporto merci sarà la prima applicazione per i velivoli senza pilota. Per arrivare poi a una potenziale applicazione per il trasporto passeggeri bisognerà aspettare ancora più tempo. Esistono tutte le tecnologie, abbiamo raggiunto uno stato tecnologico che ritengo abbastanza sicuro per poter costruire dei velivoli senza pilota di dimensioni tali per poter trasportare merci o passeggeri. Dobbiamo ancora però sviluppare tutti quei requisiti di sicurezza necessari per poter portare a bordo soprattutto dei passeggeri, quindi delle persone. In campo aeronautico la priorità numero uno è quella della sicurezza. Tra poco parleremo di elicotteri. Vi ricordo che abbiamo raccolto queste voci a Le Bourget, salone internazionale dell'aeronautica e del settore aerospaziale anche per la difesa. Questo è 2024, siete su Radio 24, riprendiamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, più tardi torneremo a parlare dei nostri classici temi, ci occuperemo di elettronica di consumo, ma soprattutto di come l'elettronica di consumo viene diffusa, distribuita, venduta, dell'importanza dell'informazione, non solo quella che devono fare i media, ma anche quella che dovrebbero fare le aziende, le catene che distribuiscono l'elettronica di consumo. Parleremo anche di supercomputer, c'è un supercomputer in Italia che è il più efficiente al mondo, lo ha decretato una classifica internazionale in modo ufficiale. Stiamo parlando del settore aeronautico, ne abbiamo parlato perché abbiamo visitato il Salone Internazionale di Parigi a Le Bourget. Finmeccanica era ben rappresentata da una grande esposizione di tutti i prodotti che vengono realizzati negli stabilimenti in tutta Italia e nel mondo, perché Finmeccanica è uno dei gruppi del settore aerospaziale più importanti al mondo. Abbiamo parlato poco fa del settore degli aerei civili e militari, con Giuseppe Giordo, amministratore delegato di Alenia Aermacchi del gruppo Finmeccanica, ma naturalmente tra le eccellenze del gruppo ci sono gli elicotteri. Daniele Romiti, amministratore delegato di Augusta Westland. Ma io credo che, come tutti gli oggetti che hanno necessità di volare, quindi di staccarsi dal suolo, la ricerca della leggerezza rimane uno dei principi basilari di questi oggetti. Quindi tutta la nostra attività di ricerca è spesso orientata verso questa direzione, quindi la ricerca di materiali compositi ha voluto rappresentare un ulteriore salto nella ricerca della leggerezza, della rigidità delle nostre strutture, tant'è che oggi i nostri elicotteri stanno evolvendo verso strutture completamente in fibra di carbonio. Certamente ultimamente noi siamo anche molto orientati all'ecologia di questa forma di trasporto, come tutti in fondo. E come si ottiene nell'elicottero? Fondamentalmente la nostra ricerca è quella di ridurre le emissioni generate dai motori, come qualsiasi motore che brucia del carburante genera delle emissioni, e lo stiamo facendo attraverso delle applicazioni ancora più rivolte all'uso di generazione elettrica. Ovviamente non potrà sostituire l'elettricità in toto una propulsione convenzionale, però già oggi noi stiamo introducendo sui nostri elicotteri sempre più dei sistemi di attuazione elettrici che ci permettono di ridurre quello che è la dimensione del motore che noi usiamo a bordo dei nostri elicotteri. Nello stand che abbiamo presentato al Salone di Le Bourget abbiamo anche portato quello che per noi rappresenta un po' un sogno probabilmente inarrivabile, cioè un velivolo completamente elettrico. In questo momento chiaramente la limitazione arriva dalla tecnologia, oggi le batterie non hanno certamente una durata così estesa e quindi non è pensabile un'applicazione immediata, però un domani noi possiamo tirar fuori da questa nostra culla di innovazione tutta una serie di applicazioni che via via, man mano che rendiamo sicure e adeguate, imbarcheremo sui nostri elicotteri. Quindi leggerezza da un lato, dall'altra la ricerca di emissioni più contenute in modo da non inquinare, e poi la rumorosità. Anche il rumore sapete bene che è una forma di inquinamento, e la nostra ricerca applicata quindi alle pale, che sono poi quegli oggetti che ruotando tengono in aria i nostri elicotteri, ha fatto sì che ultimamente il rumore che noi emettiamo all'esterno sia sensibilmente calato. Dopodiché, se guardiamo ancora più avanti, avete visto che la formula del convertiplano, cioè di quell'oggetto che può decollare e atterrare come un elicottero, ma poi in realtà vola come un aeroplano, è per noi la frontiera prossima, perché in fondo noi stiamo volando con questi oggetti, stiamo quindi puntando a certificarli, quindi a farli diventare un bene fruibile alla popolazione alla fine del 2017, che non è una data così lontana in fondo. E con questo abbiamo in fondo messo insieme questi due aspetti, perché è un velivolo molto silenzioso, chi l'ha sentito volare si è meravigliato di questa caratteristica, quindi abbiamo centrato una delle tre dimensioni, ovviamente il peso ha costituito ancora una volta una ricerca esasperata sui materiali e su alcune architetture. E poi ovviamente anche il fatto delle emissioni, il fatto stesso che sia anche in parte un aereo, ci consente di avere una potenza imbarcata leggermente inferiore nell'uso in modo aeroplano, e quindi di essere meno inquinante nei suoi trasferimenti ad alta velocità. Qui al Salone delle Bourget, ma in generale, stiamo vedendo molti droni, quindi molti aeroplani che vengono pilotati senza un pilota. Nel campo degli elicotteri sta succedendo la stessa cosa o le cose sono un po' più complicate? No, sta succedendo esattamente la stessa cosa, e devo dire che Augusta Westland da questo punto di vista è molto ben posizionata. Perché? Perché fondamentalmente noi abbiamo fatto con tecnologia nostra, quindi posseduta dalle nostre persone, dai nostri tecnici, tutta la parte di pilotaggio automatico degli elicotteri, quindi tutto quello che viene definito autopilota oggi si sviluppa dentro Augusta Westland. Questa capacità ci ha consentito velocemente di rendere questo volo automatico anche indipendente dalla presenza dell'uomo, e noi abbiamo un nostro modello di elicottero che vola in Polonia, nel nostro stabilimento polacco, che è proprio dedicato all'applicazione di queste tecnologie per il volo non pilotato, cioè pilotato in remoto. Addirittura pensiamo che questa capacità possa essere poi scalabile, quindi una volta che uno abbia trovato l'architettura ottimale per rendere la macchina pilotabile in remoto, questa possa essere applicata a qualsiasi dimensione di elicottero. E il nostro intento quindi è sia di servire chi utilizza questi veicoli non pilotati per compiti specifici quali la sorveglianza del territorio o di zone pericolose, basti pensare, che ne so, all'incidente di Fukushima piuttosto che incendi o eruzioni vulcaniche, dove quindi avvicinarsi con un mezzo con a bordo dei piloti rappresenta intrinsecamente un rischio. Ma un domani anche per applicare queste capacità di pilotaggio a distanza, laddove si debbano fare delle missioni, per esempio a forte affaticamento dell'equipaggio, quindi classicamente dei trasporti a lunga distanza, quindi con lunga permanenza a bordo, eventualmente farli durante le ore notturne, quindi ovviamente in rotte che non diano disturbo alle abitazioni, alla popolazione, ma che possano costituire per esempio il trasferimento di materiali. Voi producete grandi elicotteri, medi elicotteri, se noi parliamo di droni, stanno cominciando ad affacciarsi tecnologie, aziende che producono anche mini elicotteri. In questo campo pensate che ci possa essere un'evoluzione e che sia un mercato interessante? Perché parlando con chi li produce ci sono grandissime aspettative, però chiaramente i punti di vista possono essere diversi. Ma noi ci siamo anche orientati sul piccolo, nel senso che noi stiamo sviluppando un drone da 200 kg, che quindi è direi molto piccolo rispetto a quello che può essere il peso di un elicottero, comunque piccolo, ma non è mai meno di 800-1000 kg un elicottero. E quindi l'abbiamo fatto non da soli, perché riteniamo che la dimensione della nostra azienda non sia compatibile con quella gamma di prodotti, lo stiamo facendo con una società in cui abbiamo un'attività congiunta, una società italiana peraltro, che risiede a Pisa. Con questa noi stiamo sviluppando appunto un'applicazione molto piccola che potrebbe essere utilizzata per monitoraggio del territorio, situazioni molto particolari relative all'ambiente, e quindi riteniamo di aver coperto anche la fascia del piccolo. Quale può essere la dimensione di questo mercato? Sinceramente è difficile dal mio punto di vista avere una stima abbastanza attendibile. È chiaro che nel piccolo le dimensioni economiche in gioco sono certamente più contenute, però non sottovaluterei che alcune necessità che ovviamente provengono dall'ambiente militare, perché noi abbiamo avuto interessamento per esempio della nostra marina ad avere dei droni applicati al mondo elicotteristico, si possono poi derivare delle semplificazioni tecnologiche che possano ridurre anche la dimensione costo, e quindi anche se superassimo i 200 kg e si andasse su dimensioni maggiori, lo si possa fare con costi tutto sommato contenuti. Oppure ridurre addirittura la dimensione e fare anche microdroni. Il microdrone è certamente un'applicazione, lo vediamo oramai su tante riviste, si accompagna alla miniaturizzazione di molti sensori, perché questo ovviamente va di pari passo. È un campo dove noi riteniamo di non avere da esprimere granché, nella misura in cui ovviamente più si scende nella scala della dimensione, più il peso economico della soluzione deve essere necessariamente resa compatibile, quindi è più abbordabile da piccole organizzazioni il fatto di mettere insieme queste cose, che intrinsecamente hanno anche meno requisiti, perché chiaramente un oggettino molto più piccolo è meno impattante l'ambiente, nel senso che immaginatevi che far volare in modo non pilotato un elicottero debba comunque soddisfare tutta la regolamentazione aeronautica, che è ovviamente a difesa del cittadino, perché nessuno di questi oggetti deve arrivargli in testa, che è il fondamentale principio rispetto al quale va monitorato anche questo mercato, evidentemente. Senta, il costo delle macchine che voi producete sta diminuendo o no? Se noi pensiamo al settore aereo, molti cittadini hanno avuto negli ultimi anni la possibilità di viaggiare in aeroplano grazie molto probabilmente anche a costi che si stanno riducendo. Nel settore elicotteristico sta accadendo la stessa cosa o no? Perché viene visto l'elicottero ancora come un mezzo molto costoso. Sta accadendo la stessa cosa, nella misura in cui vedete che Augusta Western ha sviluppato un concetto di famiglia. Allora, questo concetto di famiglia, tradotto in fatti pratici, significa standardizzare molti componenti fra differenti modelli di elicottero. Questo ovviamente a beneficio della riusabilità di alcune soluzioni. Allora, più soluzioni io riesco a riutilizzare fra i differenti modelli, più basso io otterrò il costo di sviluppo di questi nuovi modelli e quindi entro già sul mercato con un costo di sviluppo che è decisamente più contenuto. L'altro aspetto sensibile ovviamente è il costo del carburante e quindi più noi andremo nel campo dell'ibrido e quindi meno carburante ci servirà portare per consumarlo evidentemente, anche questo rappresenterà un altro degli elementi di riduzione costo. Il terzo elemento è la manutenzione. Essendo un mezzo dichiaratamente complesso, l'elicottero ha avuto nelle sue origini un carico di manutenzione significativo. Noi stiamo lavorando molto su questa dimensione con un tipo di manutenzione predittiva, nel senso che abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi anni la capacità di un'autodiagnostica, nel senso la macchina si porta a bordo una capacità attraverso tutta una serie di sensori che non sto adesso a illustrare per semplicità, ma di capire quando le cose iniziano a rovinarsi e indicare qual è quella cosa che sta iniziando a rovinarsi, con il vantaggio quindi di non avere la necessità di sostituire periodicamente delle cose perché non so quando si possono scassare, ma io riesco a sostituire in maniera mirata quei componenti il cui degrado inizia a manifestarsi attraverso questa capacità nostra di leggere o livelli di vibrazione che aumentano o rumorosità associate che cambiano di frequenza o cose di questo genere. Ci sta facendo un esempio pratico di una cosa che si può fare con i famosi big data, quindi anche dell'analitica, in questo caso applicata ad una macchina. Assolutamente, nel senso che tutti questi dati vengono scaricati una volta che la macchina atterra e vanno a riempire un database, quindi un archivio di dati che ci consentono di valutare sempre meglio e con più accuratezza quali sono le soglie che sono da associare ai livelli appunto di intervento che la macchina può richiedere. Lo stiamo facendo anche con dei sistemi che questi dati li trasmettono a distanza, nel senso con delle tecnologie che permettono di inserire sui singoli equipaggiamenti, adesso devo usare un termine inglese, RFID, cioè la radiofrequenza installata su un chip che viene associato a questi elementi e che manda via radio le sue informazioni. Quindi quando la macchina transita in vicinanza di un ricevente opportunamente attrezzato, in un hangar o in una postazione specifica, noi scarichiamo in automatico tutti questi dati. E questa nostra capacità, dove Augusta Western ha investito e sta ottenendo anche delle soddisfazioni, perché i nostri clienti stanno riconoscendo questa capacità che diventa sempre più distintiva del nostro prodotto, ci è particolarmente necessaria per tutte quelle applicazioni nel mondo che noi chiamiamo dell'oil and gas, cioè oggi l'elicottero è usato quasi in modalità compagnia aerea, cioè con flotte consistenti di 30-40 elicotteri dai servizi di trasporto per le piattaforme petrolifere. Tutte le piattaforme oggi sono dotate di piattaforme di atterraggio per gli elicotteri che portano avanti e indietro dalla terraferma uomini e materiali. L'uso di queste macchine è continuativo durante le ore diurne, quindi noi attraverso questa capacità di tenere monitorata la macchina consentiamo il miglior uso dei nostri elicotteri per questo tipo di servizi e per i nostri clienti questo fa una certa differenza. Bene, noi concludiamo questa parte che abbiamo dedicato all'aerospazio, ai velivoli civili, militari, ai motori per lanciatori aerospaziali e anche agli elicotteri dove per tradizione, ma ancora tutt'oggi, l'Italia con Augusta Westland eccelle. Riprendiamo tra poco questa puntata di 2024, parleremo di una cosa che serve anche per progettare aerei ed elicotteri, i supercomputer, perché abbiamo una buona notizia questa settimana: i due supercomputer più efficienti al mondo sono di un'azienda, tra l'altro, ma questa è solo una parentesi, partecipata da Finmeccanica, un'azienda che ha installato questi supercomputer al Cineca di Bologna e al nuovo centro della Selex ES che si trova a Chieti. Ne riparliamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, che per noi è l'ultima della stagione, ma attenzione, non vi abbandoniamo, ci saranno nuove puntate, quindi nessuna replica a partire già dalla prossima settimana, ma invece di 1:30 il sabato pomeriggio andiamo in onda sempre il sabato pomeriggio per circa mezz'ora. Dopo aver parlato del settore aerospaziale, parliamo di un supercomputer, perché siamo molto felici di annunciare che in Italia ci sono i due supercomputer più efficienti al mondo. Quando si parla di consumi energetici, visto il costo dell'energia, è molto importante parlare di efficienza. Questo è un concetto di cui si discute in molti settori. Beh, sappiate che i supercomputer, che sono fondamentali per lo sviluppo tecnologico, per la progettazione, per la ricerca, consumano un sacco di energia elettrica. Allora, ce ne siamo occupati il 2 febbraio, quindi vi consiglio di andare a riascoltare quella puntata. Comunque, da ieri è stata aggiornata la classifica Green 500, che raccoglie i supercomputer più efficienti al mondo. Allora, il primo posto di questa classifica è occupato da Eurora, che è il supercalcolatore prodotto dalla Eurotech, che è un'azienda italiana, che è stato installato all'inizio dell'anno all'interno del Cineca, il consorzio interuniversitario che ha sede vicino a Bologna, a Casalecchio di Reno. Esiste una classifica dei supercomputer più potenti al mondo, tra questi viene fatta un'ulteriore classifica delle macchine più efficienti, cioè che raggiungono un determinato risultato con la minore energia. Ma attenzione, non abbiamo solo il primo posto, ma anche il secondo, che è occupato dal mega calcolatore installato a Chieti presso il nuovo data center della Selex ES, che è il polo elettronico e digitale di Finmeccanica, che è sempre prodotto dalla Eurotech, perché ha una tecnologia particolare. Infatti di questo avevamo parlato già nella puntata del 2 febbraio, e così Gianpietro Tecchiolli, che è il CTO, quindi responsabile della tecnologia di Eurotech, ci ha spiegato perché questi mega calcolatori sono i più efficienti sul mercato. Perché il nostro sistema, che è in grado di erogare potenze di calcolo equivalenti a quelle, diciamo, dei nostri competitor, ma utilizzando una quantità di energia decisamente inferiore. Stiamo parlando in questo caso specifico del 30% di energia in meno rispetto a quello che oggi sarebbe il computer numero uno. Il sistema è raffreddato a liquido. Al contrario di quello che avviene spesso, non sempre, ma siamo abituati sul nostro computer di casa, ad esempio, dove c'è una ventola. Esatto, le ventole per girare hanno bisogno di energia, e non solo, fanno anche rumore. La macchina è così efficiente che può essere addirittura raffreddata con acqua a temperatura molto elevata, cosa che può sembra strana. Noi diciamo che la macchina può essere raffreddata con acqua calda, che sembra strano effettivamente, no? Vuol semplicemente dire che noi possiamo utilizzare per raffreddare, fra virgolette, la macchina, acqua a temperatura ambiente, cioè non è necessario utilizzare acqua raffreddata per portare via il calore dei componenti. Io posso perfino usare acqua a 50 gradi, che non è acqua fredda, è acqua calda, acqua a 50 gradi, che riesce a mantenere comunque tutti i chip a temperatura inferiore alla loro temperatura massima di funzionamento, che può essere 80-90 gradi, visto che noi garantiamo i 70 gradi. E quindi in qualunque zona del mondo la macchina è installata, anche nei posti più caldi del pianeta, comunque la temperatura esterna non supererà mai i 50 gradi. Anche nel deserto si anche può fare. Anche nel deserto. No, infatti questa è una cosa dal nostro punto di vista importante, soprattutto per paesi caldi come l'Italia. Probabilmente saprà che ci sono grossi data center o grossi utilizzatori di data center, tipo Google, Facebook, Microsoft, che hanno scelto i paesi nordici dell'Europa per le loro installazioni dei grossi data center, proprio per sfruttare un clima più freddo. In questo caso voi dite Google, Facebook, Microsoft, eccetera, eccetera, venite nel sud Italia. Venite per esempio in Sicilia. Ecco, noi possiamo mettere a disposizione soluzioni che hanno la stessa, che offrono la stessa efficienza energetica, però in paesi caldi. Col vantaggio che nei paesi caldi magari si riesce a sfruttare anche un fotoelettrico, in Norvegia magari è meno possibile, no? Digital News. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Da lunedì si abbassano nuovamente le tariffe di roaming per chi telefona e naviga in internet in mobilità all'interno dell'Unione Europea, agganciato a una rete di telefonia mobile. I tagli delle tariffe massime riguarderanno anche la Croazia, che dal 1 luglio sarà il 28esimo paese dell'Unione Europea. Bruxelles vorrebbe azzerare i costi di roaming nei prossimi anni, approvando una legge entro il prossimo anno. In ogni caso, il 1 luglio 2014 è già previsto un ulteriore taglio ai prezzi. Per maggiori informazioni vi invito a visitare il sito del Sole 24 Ore, c'è un approfondimento proprio sul roaming. Naturalmente poi uno deve fare i calcoli in base alle proprie esigenze. L'ultima ad avere tagliato i costi di roaming o comunque avere fatto una nuova offerta è Vodafone, ma ci sono molte altre offerte sul mercato e quelle dell'Unione Europea sono le tariffe massime che possono essere applicate. Poi molti gestori offrono sicuramente tariffe migliori rispetto a quello che è stato stabilito dalla Commissione Europea. Per ora il tentativo di rilanciare BlackBerry non ha funzionato, nonostante i nuovi Z10 e Q10. Nell'ultimo trimestre ne sono stati consegnati 2,7 milioni. Il totale degli smartphone venduti da BlackBerry è stato di 6,8 milioni di pezzi, in rialzo del 13%, ma i clienti BlackBerry si sono abbassati, sono passati da 76 a 72 milioni nell'ultimo trimestre. Il rosso è stato pari a 84 milioni di dollari contro la perdita da 518 dello stesso periodo 2012. Da questa settimana chi compra un CD su Amazon o lo ha fatto dal 2010 in poi riceverà automaticamente una copia digitale della musica acquistata, che viene salvata direttamente nel cloud di Amazon. Non è un regalo, perché chiunque acquisti musica ha diritto a farsi una copia per uso privato, ma sicuramente è un servizio molto comodo, soprattutto per chi compra molta musica e ne vuole fare un uso legato non solo all'impianto principale sul quale ascolta il CD. E quindi è sicuramente una gran comodità il famoso rip del CD. Infatti questo servizio si chiama Autorip. Ne abbiamo parlato con Martin Angioni, che è amministratore delegato di Amazon Italia. Ormai il proliferare di dispositivi per la riproduzione sonora musicale molto ampio, quindi dai telefoni, smartphone, tablet di ogni tipo, iPod Touch, sistemi sia iOS che Android, cioè, offrono la possibilità di ascoltare la musica per esempio quando uno è in movimento, quando uno sta facendo attività sportiva, e quindi non sempre uno ha uno stereo col CD appresso, mentre invece questi dispositivi appunto permettono in varie fasi della giornata nelle quali uno magari non è in casa di poter comunque ascoltare la musica. Il beneficio che riguarda non solo chi compra oggi un CD, ma anche chi l'ha comprato a partire dal 2010 in avanti, il vantaggio è proprio quello, appunto, di avere gratuitamente una copia digitale. Senta, questo vale anche per chi acquista CD da altri paesi, da altri negozi? No, questo vale per Amazon.it e quindi i clienti italiani, per usufruire di questo beneficio che si chiama Autorip, dovranno acquistare i loro dischi appunto sul sito italiano. Voi in Italia non avete ancora cominciato a fare, immagino lo farete, alcune cose interessanti che stanno facendo vostri colleghi negli Stati Uniti e anche in altri paesi. Ad esempio, fate gli editori, giusto? Cosa significa questo? Sì, negli Stati Uniti già da vari anni Amazon, essendo una grande libreria in vari paesi del mondo, incluso Giappone e Cina, sa bene quali sono i best seller in vari paesi, e quindi ha il vantaggio rispetto diciamo un enorme numero di titoli che non erano tradotti in inglese, perché la situazione negli Stati Uniti è che solo il 3% dei titoli pubblicati in tutte le lingue vengono poi pubblicati in lingua inglese per il mercato statunitense. Quindi Amazon, avendo accesso a informazioni sui titoli più alto vendenti nei vari paesi, ha iniziato traducendo in inglese e pubblicando titoli che appunto non avevano trovato un editore. E poi l'attività è cresciuta, adesso Amazon pubblica libri sia in Inghilterra che in Germania. Potrebbe farlo anche in Italia. Potrebbe. Questo lo vedremo. Esatto. Diciamo senta, avete cominciato a fare anche un'altra cosa interessante nel mondo del video. Negli sì. Stati Uniti che cosa? Ci sono degli Amazon Studios che producono sostanzialmente serie TV. Questo perché negli Stati Uniti l'offerta video è molto ampia e quindi, insomma, vista la popolarità e l'importanza di questi contenuti, Amazon è diventata anche produttrice di serie TV. E sicuramente queste due sono tendenze che gli addetti ai lavori conoscono, ma che il mercato dovrà tenere in debita considerazione, perché questi Amazon, come Google, come altre aziende, allargano il proprio fronte sempre di più, invadendo campi che tipicamente erano presidiati da altre aziende e altre società. Dunque, c'è chi di fronte a questa notizia, cioè della disponibilità di un file digitale a fronte dell'acquisto di un CD, mi ha scritto dicendo: ma chi compra ancora in CD? Beh, sappiate che circa 7 canzoni su 10 vengono ancora vendute sul canale fisico, e devo dire che, ma abbiamo dedicato anche una trasmissione a questo, dal punto di vista della qualità audio ancora il CD è superiore a buona parte delle proposte commerciali degli store musicali digitali. Poi ci sono, è vero, delle piccole nicchie di mercato che offrono musica liquida digitale ad altissima qualità, ma ancora come standard il CD ha una qualità migliore. Poi bisogna avere anche le orecchie buone e l'impianto buono, ma questo è un altro capitolo. Ci fermiamo un minuto, riprendiamo tra poco. 2024. Non ci siamo naturalmente dimenticati di una delle notizie della settimana, che Microsoft ha presentato la preview, quindi la versione anteprima, potremmo definirla una sorta di beta, di Windows 8.1. Non è ancora la versione definitiva, quindi se non siete esperti, se non siete bravi a reinstallare il software, ad esempio, non installate questa versione, aspettate quella definitiva che arriverà dopo l'estate. Versione di Windows 8.1 che ha alcune novità, che conferma sostanzialmente che per l'uso con strumenti touch va benissimo la nuova interfaccia a tessere che Microsoft ha introdotto lo scorso anno, così come in Windows Phone, uniformando quindi l'interfaccia su mobile, su smartphone, su tablet e anche su computer. Ma per chi usa ancora il mouse e la tastiera va molto meglio il vecchio desktop con il tasto Start. Infatti una delle novità è proprio quella annunciata da Steve Ballmer. You will see that we bring back the Start button to the desktop. Novità tra l'altro molto applaudita, cioè il ritorno del tasto Start. Beh, dopo l'estate sicuramente ne parleremo quando questa versione sarà definitiva e disponibile per tutti. Saluto Gianfranco Giardina per parlare del mercato dell'elettronica di consumo. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale dday.it, www.dday.it. Bentornato 2024, ciao. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Uno dei motivi, sicuramente ci sono tanti motivi, non ultima la crisi economica, ci sono meno soldi che girano, ma secondo noi, secondo molti, uno dei motivi della crisi del mercato dell'elettronica di consumo è la mancanza di informazione, cioè un consumatore poco informato, poi bisogna capire anche chi deve informarlo, noi facciamo una nostra piccola parte, forse è meno propenso all'acquisto? Può essere una ragione questa? Questo sicuramente sì, è meno propenso all'acquisto, ma soprattutto è meno propenso a un acquisto adeguato alle sue esigenze. Spesso sugli scaffali dei negozi sono appoggiati, molte volte poco più che appoggiati, dei prodotti che hanno dei contenuti molto interessanti, che offrono delle funzionalità molto interessanti per il consumatore, ma è evidente che se queste funzionalità non si capiscono, non si percepiscono, non se ne capisce il valore, nessuno è disposto a spendere. Così succede che prodotti apparentemente simili, se non addirittura apparentemente identici, ma in realtà profondamente diversi per il contenuto tecnologico che hanno, vengono valutati in base all'unico elemento che è semplicissimo da comparare, cioè il prezzo. E se io ho due prodotti che mi sembrano molto simili, se non addirittura identici, con prezzi molto diversi, beh, è evidente che sceglierò, se non sono sufficientemente informato, quello a prezzo più basso. Sì. Se sono informato, posso sempre scegliere quello a prezzo più basso, perché magari è un apparecchio che per mi interessa poco, oppure ho esigenze basse. Ma quello che abbiamo sempre detto e continuiamo a ripetere, ci sarebbe bisogno di acquirenti consapevoli, non solo per le sorti del mercato, che parliamoci chiaro, ai nostri ascoltatori e consumatori interessano tutto sommato poco, interessa forse le sorti del proprio portafoglio o le sorti del proprio intrattenimento domestico e non, ma soprattutto per le performance e quindi per le prestazioni, per il prodotto che l'utente si porta a casa. Molte volte... Certo. Ma anche perché un mercato povero poi potrebbe spingere verso una minore innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica, ma soprattutto, visto che l'innovazione tecnologica ormai è a livello globale, cioè non dipende più dall'Italia, quello che succede è che alcuni prodotti vengano non importati in Italia, importati con una distribuzione molto meno capillare, quindi difficili da provare, difficili anche da vedere nei negozi, e se sono difficili da vedere nei negozi da provare, poi evidentemente non possono neanche essere apprezzati dagli utenti. Hai citato più volte il negozio, il punto vendita, lo scaffale. Allora diciamo subito che in generale l'e-commerce vale in Italia all'incirca tra l'1 e il 2% del fatturato globale del commercio, quindi vale ancora pochissimo. Allora è vero che per l'elettronico di consumo questa percentuale è un po' più alta, possiamo arrivare anche fino al 5% grosso modo, però rimane soprattutto per alcuni prodotti il punto vendita molto importante, perché si possono provare i prodotti. Possiamo dire che per rappresentare la crisi del mercato dell'elettronica di consumo, forse a parte i telefoni cellulari, gli smartphone, il prodotto che più rappresenta questo calo drastico negli ultimi anni è rappresentato dalle TV, perché ci sono dinamiche molto interessanti dal punto di vista prezzo. Lì sono proprio crollati i prezzi. Sì, i prezzi sono crollati, le quantità non sono quelle degli ultimi 2-3 anni, e questo anche a causa del fatto che c'è stato lo switch off, e quindi ci si sta confrontando con cifre di vendita molto importanti, causate proprio dal ricambio quasi forzato o comunque molto spinto dovuto al passaggio al digitale terrestre. Adesso il mercato sta riassestando sulle solite cifre italiane, che sono intorno ai 5 milioni di TV, un poco meno all'anno, che sono comunque tanti. Il problema qual è? Che nel frattempo i prezzi sono effettivamente scesi e parecchio, segno di una grossa competizione su questo mercato, e la spinta verso prezzi più bassi alcune volte ci ha fatto anche vedere una tendenza magari in alcuni casi ad avere prodotti anche qualitativamente un po' meno interessanti, soprattutto sotto il punto di vista dei materiali e delle finiture. Sì, perché, però non bisogna generalizzare. Esatto, anche perché un consumatore potrebbe dire è una bella cosa che calino i prezzi, però se il rischio è poi che veniamo messi ai margini dei mercati internazionali, che i prodotti siano di scadente qualità, questo sicuramente non è una buona cosa. È già successo negli ultimi anni che alcuni prodotti top di gamma nell'ambito TV, per esempio alcuni marchi, decidessero di non importarli in Italia. Sì, questo è importante, e secondo me questo è un ragionamento, un discorso che vale anche per altri mercati. Noi stiamo parlando di elettronica di consumo perché è un tema che seguiamo molto spesso. Poche settimane fa Gianfranco Giardina ha incontrato Claudio Lamperti, che è l'amministratore delegato di Panasonic. C'è una bella intervista su dday.it, dura mezz'ora. Noi abbiamo scelto alcuni passaggi proprio per parlare chiamiamolo opportunità, del mercato, di capire che una buona informazione che può partire anche dalle aziende, dai negozi, dai punti vendita, può essere un'opportunità per rilanciare il mercato, soprattutto dal punto di vista della qualità. Un buon esempio è quello che è successo negli ultimi anni al plasma, che è stato marginalizzato dal mercato e, secondo noi, da una cattiva informazione Non nostra però, perché noi abbiamo parlato in modo corretto e oggettivo, diciamo così. È rappresentato tutto ciò dal plasma, che è stato relegato al 5% del mercato contro l'LCD. Sentite che cosa ha detto Lamperti. Risposte non sono sempre razionali nel mondo della tecnologia. Abbiamo visto altri esempi di prodotti eccellenti, il Betamax o il Video 2000 schiacciati dal VHS. Perché? Non c'è una ragione, o comunque io non sono in grado di dargliela. Ci sono molti miti e come tale sono leggende metropolitane. Il mito del fatto che una tecnologia è vecchia e l'altra è nuova. Se una tecnologia è migliore, che sia vecchia o nuova, non cambia, però ti mette un'etichetta addosso. Il fatto che i consumi siano diversi. Però sono le leggende metropolitane o i falsi miti che quando poi cominciano a accumularsi se ne esce con difficoltà. Anche il fatto della... sai, una volta si parlava della sottigliezza. La sottigliezza ormai è un plasma, è sottile come un LCD, e comunque tra un centimetro e un centimetro e tre non ti cambia nulla. Allora Gianfranco, sei d'accordo che il plasma è stato vittima soprattutto di una cattiva informazione? Stiamo parlando di informazione delle aziende, della distribuzione e anche dei media rispetto all'LCD. O c'è un motivo tecnologico? Ma no, assolutamente, è stata forse una mancanza di informazione, non voglio metterci del dolo, cioè non c'è stata cattiva informazione, ma proprio una mancanza di informazione per un prodotto come il TV che riguarda praticamente la totalità delle famiglie italiane. C'è stato un lungo periodo in cui plasma e LCD nella testa della gente erano assolutamente dei sinonimi, non capivano che differenze ci fossero. Nessuno ha mai provato neanche a spiegarle, non esiste, non è mai esistita, a parte appunto 2024, ma una trasmissione per esempio televisiva a livello nazionale che avesse mai provato a impostare il discorso delle differenze tra plasma e LCD. E così per lungo tempo si è andata avanti con le persone che dicevano voglio un plasma, voglio un LCD, come se fossero assolutamente sinonimi. Dopodiché è partita, diciamo, la grande campagna legata al LED, al TV LED, che di fatto è un LCD, anzi è un LCD semplicemente con delle lampade LED invece che con delle lampade a fluorescenza, e lì si è impostato un discorso di differenziazione, molto marketing e poco concreto, sul fatto che esistesse il TV LED proprio per distaccarsi dal passato e quindi da questa specie di marmellata plasma LCD di cui parlavamo prima. Sì. E questo ha un po' creato la differenza e ha marginalizzato il plasma a qualcosa di vecchio, mentre il LED suona come qualcosa di nuovo. Il plasma è una tecnologia sicuramente che ha più tempo, più anni, che vuol dire che è anche stata maggiormente perfezionata, ha raggiunto dei livelli eccellenti, probabilmente non verrà ulteriormente sviluppata, ma semplicemente perché stanno facendo capolino nuove tecnologie come l'OLED. Lo stesso potremmo dire dell'LCD. È difficile pensare che l'LCD possa avere ulteriori sviluppi in termini qualitativi di immagine rispetto a quanto fatto e raggiunto fino a oggi. Quindi è stato marginalizzato e catalogato tra le cose vecchie senza che vecchio fosse, catalogato tra le cose di serie B senza che di serie B fosse, anzi in termini di qualità di immagine è assolutamente la serie A, questo l'abbiamo sempre detto. E poi c'è il caso del suono, dell'audio. Sentiamo a tal proposito sempre Lamperti, che a nostro parere ha ragioni da vendere. Quella che non riesce a capire, non riuscirà mai a capire, non riesco a immaginare come, è l'audio, che è la componente, la seconda componente più importante in un televisore dopo l'immagine. Possiamo dire che è abbastanza maltrattato l'audio. No, non esiste, quindi non nessuno sa niente di audio. Sì, ma come suonano questi TV a schermo piatto? Ma suonano molto peggio ovviamente di un CRT, ma il problema è che non lo sa nessuno e non c'è modo nei punti vendita, che sono delle discoteche, oggi io le chiamo discoteche, c'è sempre della musica di sottofondo, non c'è modo di sentire, fare delle comparazioni tra un televisore e l'altro sull'audio, viceversa tra televisore e televisore ci sono differenze di audio, ma soprattutto fare una comparazione sarebbe utile per... il retailer, per soddisfare il bisogno del consumatore invogliandolo a comprare degli add-on che oggi diventano necessari data la sottigliezza dei televisori. Quindi delle soundbar qui non sono più qualcosa che è bello avere se voglio sentire il surround. Io oggi, se voglio sentire banalmente il parlato di un telegiornale, ho bisogno di una soundbar intelligibile. Ma se uno non sa che il televisore suona male finché non l'ha portato a casa, o suona peggio di prima, per definizione deve suonare peggio di prima. Mi spiace essere tranchant, ma quando un televisore era a 80 cm aveva delle casse armoniche che uno di 1,5 cm non può avere. Evidente. Però uno non lo scopre finché non ce l'ha a casa, ed è un disastro che io penso che sia da imputare a retail in questo momento. Perché alla fine il tramite deve essere lui. Questo è 2024, ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco. 2024. Questo è 2024, stiamo parlando del mercato dell'elettronica di consumo, un mercato importante che però sta subendo una crisi, sia per la più generale crisi economica, ma anche una crisi quasi di identità, soprattutto per alcuni prodotti in alcuni settori, in alcuni sottosettori, anche per, noi riteniamo, per mancanza di buona informazione. È con me Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Chi deve fare questa informazione? I negozi e le aziende hanno vantaggio a fare una buona informazione, perché con un utente consapevole si riesce a vendere un prodotto migliore, questo l'abbiamo detto. Quindi loro non devono, ma dovrebbero, perché ne avrebbero tutti i vantaggi. Il consumatore avrebbe tutti i vantaggi anch'esso a informarsi bene per fare un acquisto corretto, visto che stiamo parlando di beni semidurevoli o durevoli, comunque che durano degli anni, che stanno nelle case degli anni, quindi non cose che si consumano immediatamente. Quindi per fare una scelta anche aperta al futuro bisogna in qualche modo documentarsi. Il problema qual è? Che il mercato e tutti gli attori del mercato, compresi i consumatori, tendono a semplificare, a banalizzare e a ragionare per luoghi comuni. Sì. E questo è il primo male che colpisce la buona informazione. Faccio un esempio banalissimo, non so, le reti Wi-Fi di cui parliamo spesso. Di cui abbiamo parlato anche 2024, anche la settimana scorsa. Ecco, le reti Wi-Fi che uno può farsi in casa con un router, access point, eccetera, si chiamano tutte Wi-Fi e sembrano tutte la stessa cosa. Esistono invece molti standard Wi-Fi con prestazioni diverse, e all'interno degli stessi standard esistono apparati con più antenne capaci di prestazioni migliori, sia in termini di portata sia in termini di velocità. E catalogare tutto come Wi-Fi semplicemente banalizza, però dopo uno arriva davanti allo scaffale e si trova apparati, un router che costa 29 euro e uno che ne costa 199. E non capisce. E se non capisce la differenza, certo, comprerà quello da 29. Sì. Porterà a casa un prodotto che funzionerà probabilmente molto peggio di quello da 199, magari la soluzione giusta non era quella da 199, ma magari quello da 99. È la soluzione giusta, adeguata per la sua casa, per le sue prestazioni, per quello che ha bisogno di fare. E soltanto se si è un po' informato su questo, devo dire, 2024 fa la sua parte, internet aiuta molto. Ma possiamo aiuta fare molto. Una piccola parte, naturalmente. Certo, internet aiuta molto, ma ci vuole che questa informazione ci sia. Lo stesso accade per esempio con le lavatrici, banalmente. Ah, un gran caos. No? Sì, le lavatrici, ci sono delle tecnologie all'interno delle lavatrici molto sofisticate. Il modo in cui vengono identificate le lavatrici normalmente sono i giri della centrifuga, 800 giri, 1200 giri, 1500, come se quello fosse indicativo della qualità, del tipo di cestello montato, dei programmi che sono a bordo, della capacità di lavaggio. È assolutamente no. Sì. Poi salendo, questo vale per tutto. Che ne so, uno dei grandi megatrend degli ultimi tempi è cloud computing. Anche nel cloud c'è troppo marketing e poca informazione, quindi questo è anche un invito a tutto il mondo dell'industria. Poi ci sono delle aziende che sono assolutamente lodevoli, perché fanno degli incontri con i loro clienti, organizzano delle sessioni di informazione, quindi sicuramente quella è una buona cosa. Però in generale noto che c'è un po' troppo marketing. Devo dire che noi siamo anche un po' allergici a volte a parlare con alcuni attori del mercato, perché parlano per luoghi comuni, per slogan, per marketing, e sono incapaci. Probabilmente alcuni di loro non conoscono nemmeno questo è un altro problema, che molti addetti ai lavori non conoscono. Poi ce ne sono alcuni assolutamente competenti, allora naturalmente va il loro merito, ma poi noi li intervistiamo anche, quelli bravi. In un momento di crisi come questo è presumibile pensare che il consumatore diventi un po' più razionale, un po' meno emotivo. E anche per questo, se ci sono delle informazioni concrete che giustifichino un investimento, perché di fatto questo rappresenta per la famiglia, in una direzione piuttosto che in un'altra, vanno date. Gli slogan funzionano molto meno in un momento di crisi, sì, perché è difficile che il consumatore, con anche semplicemente delle difficoltà non ancora conclamate, ma semplicemente che sembrano arrivare all'orizzonte, possa ragionare in termini emotivi e dire va là, compriamo questo apparecchio così ci divertiamo un po'. Cercherà di valutarlo più attentamente. E su questo fronte credo sinceramente che ci sia da fare molto di più, sia da parte delle aziende, sia da parte dei media, certo, l'abbiamo detto molte volte, e sia da parte dei negozi, che sono un punto di contatto importantissimo per il consumatore, per documentarsi, è l'unico punto in realtà dove riescono a toccare con mano i prodotti. Esatto. Veniamo al punto vendita. Allora, ci sono i talebani dell'online che dicono vabbè, tanto compreremo tutto online. Allora, io ho parlato con grandi player internazionali e loro stessi dicono beh, se arriviamo al 10-15% di vendite online sul totale delle vendite, beh, festeggiamo. Quindi sicuramente la prospettiva è quella di avere, direi per molti anni, per sempre, punti vendita fisici. Poi magari questi possono anche essere mediati e mixati con soluzioni online, magari compro online e ritiro sul punto vendita, eccetera. Poi su questo dedicheremo sicuramente puntate nei prossimi mesi, magari nella nuova stagione di 2024, ma è certo appunto che il punto vendita è importante. Da questo punto di vista, Gianfranco, stiamo perdendo colpi, cioè vediamo che forse a causa soprattutto della crisi molte catene sono in forte sofferenza, e all'interno di una sofferenza più generale, quella dell'incapacità di accogliere i clienti e informarli è forse una delle principali. Siamo in un'era di spending review anche nel retail specializzato elettronica di consumo. Questo vuol dire che da un certo punto di vista si ottimizzano le griglie, quindi la gamma di prodotti presente nei negozi si riduce per non avere troppo magazzino, e anche la profondità del magazzino si riduce proprio in termini di quantità, si cerca di essere un pochino più efficienti, quindi la probabilità di scegliere, per esempio come accade abitualmente, mi documento su web, dico questo è il prodotto per me e poi vado a cercarlo in un negozio, sì, e la probabilità di trovarlo al primo colpo oramai è molto ridotta, molto bassa, semplicemente perché appunto diminuiscono i codici, dovrei girare 5, 6, 10 negozi prima di trovare proprio quel prodotto disponibile, finisce veramente che lo stimolo a comprare su internet aumenti notevolmente, sì, e questo è un primo problema. Un secondo problema è chiaro che con la spending review anche si cerca di ridurre un po' il personale, di ottimizzarne la presenza, ci sono dei compiti prettamente logistici in negozio che sono quelli proprio di caricare gli scaffali, di fare gli ordini eccetera eccetera, e quelli evidentemente non si possono comprimere più di tanto. E poi c'è l'assistenza al cliente che si cerca di comprimere un po' di più. Quindi è impensabile in questo momento, e devo dire che chi cerca di pretenderlo credo che non sia un po' coi piedi per aria, non sia realistico, è impensabile che di sabato pomeriggio si riesca ad avere un alto livello di assistenza in un negozio ben fornito, perché se è ben fornito, è un buon negozio, probabilmente avrà molti clienti all'interno, e uno sbilanciamento tra il numero di clienti e il numero di commesse in quel momento disponibili in quelle fasce orarie, in quei giorni, è inevitabile. Certo. Sentiamo ancora Claudio Lamperti, l'amministratore delegato di Panasonic Italia, che Gianfranco Giardina ha incontrato poche settimane fa, proprio sul punto vendita, sulle catene che distribuiscono l'elettronica di consumo. È un problema di cultura, è un problema di forma mentale talora delle insegne. Oggi quasi tutte le insegne in Italia distribuiscono dei pezzi più che cercare veramente di ascoltare il consumatore. Per cui oggi in Italia c'è un'offerta, io lo dico abbastanza spesso, un'offerta abbastanza indifferenziata. C'è un grande rischio che la maggiore differenziazione tra le insegne siano diversi colori utilizzati più che una shopping experience diversa. E questo non aiuta. Sostituibilità immediata, evidentemente. Sì, sì, sì, perché fedeltà bassa legata al fatto che hai un volantino e quindi la necessità di avere un volantino appealing, ma legata alla prossimità, quindi io vado dove magari sono più comodo. Se però vado dove sono più comodo, tra breve anche in Italia scopriranno che è più comodo stare a casa e comprarlo su internet. Sì, anche se, come dicevo prima, rimane sempre questo dato che la tendenza sarà quella, certo, di un aumento dell'e-commerce, ma di una presenza molto forte del negozio fisico, soprattutto per certe tipologie di merci che devono essere viste, toccate, in alcuni casi auspicabilmente provate, ma questo non è sempre vero. Sentiamo ancora Lamperti che risponde alla domanda se diventasse l'amministratore delegato, il capo di una rete distributiva, che cosa farebbe, che cosa cambierebbe? Allora, io vorrei che i negozi di elettronica fossero più accoglienti e più divertenti di quello che sono adesso. Trovo spesso delle persone che non sono in grado di darmi delle risposte. Non sono in grado di darmi le risposte, non tanto per la loro numerica, questo è ovvio, se ci vado sabato pomeriggio non posso pretendere di avere persone a mia disposizione, ma molto spesso non sono in grado di darmi delle risposte che siano delle risposte vere per quello che è la mia domanda. Ecco, io auspicherei, però non so cosa costi, quindi faccio una premessa, di avere dei contenitori più attrattivi dove i pochi che sono rimasti a parlare col consumatore, quando danno una risposta la danno sapendo di cosa stanno parlando, magari anche informandosi. Io non pretendo, perché non sono tuttologi ovviamente, non possono sapere tutto, però dovrebbero avere la capacità di accedere a informazioni che magari io come consumatore non sono in grado. Io ho bisogno da loro un servizio, quindi ho bisogno che quando io entro e faccio una domanda, loro non sanno la risposta di qual è la frequenza o il tempo di risposta di un Panasonic, ma sanno dove andare a cercarla. E sarebbe un grandissimo passo avanti, perché io non sono capace, non so dove andare a cercare sul web. Questo però non lo sto vedendo implementato. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando di elettronica di consumo e di come dovrebbero cambiare i punti vendita nei prossimi anni. Sicuramente un buon esempio di successo, perché è indiscutibile che sia un successo, è la rete, il network di negozi di Apple, che è una azienda che vende molto anche online e potrebbe forse puntare molto di più sull'online, ma la strategia dell'azienda è sempre stata, lo è ancora oggi, sempre di più quella di vendere e distribuire i propri prodotti tramite negozi fisici in molte città. Ne sono stati aperti anche in Italia, c'è un programma di apertura anche per i prossimi anni. Nei negozi Apple c'è proprio una esperienza, ci sono anche corsi per insegnare alle persone a utilizzare i software, i prodotti, eccetera, eccetera. Allora Gianfranco, secondo te che cosa deve cambiare? Sei d'accordo con chi dice che deve aumentare la competenza media dei commessi? Insomma, che cosa deve cambiare? Probabilmente è un po' il modello che deve cambiare. Adesso credo che i retailer stiano studiando e con molta competenza, e quindi vediamo quali sono le proposte che faranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma sicuramente il retail deve cambiare. Che cosa ci insegna il modello degli Apple Store? Ci insegna che c'è una differenza, cioè che il commesso non è un commesso indifferenziato che fa tutto, dal tirare i pallet fino a fare la vendita assistita ad alto valore aggiunto. Ci sono dei guru, diciamo così, che sono più preparati e dalla mattina alla sera fanno di fatto assistenza e formazione, e ci sono delle persone più, diciamo, di logistica, che magari fanno le fatture, stanno alla cassa, tanto per intenderci, sì. E, oppure gestiscono la movimentazione dei prodotti. Ecco, in questo senso credo che i negozi debbano andare, ci deve essere all'interno del negozio uno o più, se possibile più, ma basterebbe anche uno per turno, digital expert, no? Capace di mettere insieme tutti i mondi che questo mercato ci propone, che sono sempre più interconnessi, sempre più di ecosistema e sempre meno di settore. ore. È difficile parlare di fotografia senza parlare anche di smartphone, di quindi traffico dati, di social, di informatica, di condivisione, uguale per i TV, sì, di reti, eccetera, eccetera. Qui torniamo a un concetto che diciamo spesso, cioè che il mondo si è complicato moltissimo, quindi a maggior ragione l'informazione è fondamentale. Sì, sarebbe bello avere tutti i commessi perfettamente formati e pronti a rispondere a qualsiasi esigenza, sarebbe anche abbastanza realistico, anche in termini di costi. Alcuni dicono che Apple può permettersi un servizio di questo tipo semplicemente perché ha una marginalità molto più alta di altri. Questo probabilmente molto più alta. Questo è sicuramente vero, però è anche sicuramente vero che è arrivata a una marginalità, ad ottenere una marginalità più alta proprio perché ha tenuto questo tipo di strategia. Quindi qui il nesso causa-effetto è difficile da stabilire con certezza. Sicuramente quello che vedo è che i grandi superfici, per esempio di bricolage, prendere un settore così, e che cosa fanno? Fanno i corsi all'interno dei propri negozi per tinteggiare il muro, per rifare il muretto, per i piccoli lavori idraulica, altrimenti tutti i componenti per i vari bricolori non si vendono. Certo, ma noi siamo andati a Las Vegas, io ricordo, in un negozio di musica che organizza i corsi di musica gratis. Assolutamente. Perché? Sì, come pretendo per imparare a suonare lo strumento, se io, così dopo ti vendo lo strumento. Certo, gli strumenti, in realtà soprattutto quello della musica è un mondo che, se non hai un punto d'ingresso, non incominci a fare tutta l'escalation dalla prima chitarra fino a sempre quella chitarra più sofisticata, l'amplificatore migliore e così via, diventi un cliente fedele. Lo stesso vale per l'elettronica di consumo. Se ti tecnoabilito all'inizio e poi l'appetito viene mangiando, ho lo smartphone, ho la mia rete che funziona bene, riesco a interconnettermi con altri apparecchi, riesco ad avere il mio hard disk di rete e così via, ci metto su dei contenuti, i contenuti li vedo su tutti i TV che sono abilitati alla rete, voglio TV abilitati alla rete e così via, si innesca un sistema. Come con la cucina, con la gastronomia, un po' con tutto. E quindi da questo punto di vista il fatto di poter avere delle sessioni di formazione non finalizzate alla vendita diretta, non direttamente finalizzate alla vendita, ma indirettamente finalizzate alla vendita, sono delle cose assolutamente auspicabili, che credo che sia più una questione di organizzazione e di volontà che una diretta questione di costi, perché i costi a ben vedere possono anche essere contenuti per fare operazioni. Prima che alcuni ascoltatori che lavorano e fanno i commessi nelle grandi superfici ci scrivono dicendo: no, ma noi guardi siamo competenti. Allora, sicuramente la media è una buona media, poi ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, però il problema non è loro, il problema è un problema di organizzazione del lavoro. No, io quando vado in giro incontro molti commessi anche per la formazione, li trovo mediamente preparati, in alcuni casi molto preparati. Il problema è che anche volendo non avrebbero tempo per spiegare, per fare a ognuno la spiegazione di cos'è per esempio un TV oggi. È chiaro che se viene fatta questa una volta sola a 40 persone che ascoltano contemporaneamente, io nello stesso tempo formo, diciamo informo, ecco, non esageriamo, informo 40 persone invece che una sola. Esatto, in quel caso potresti anche fare vedere le differenze. E quindi ci potrebbe essere la possibilità anche di risparmiare tempo. Il fatto di fare delle classi, tra virgolette, degli eventi in negozio, non significa perdere del tempo, significa semplicemente ottimizzare il tempo, perché le stesse motivazioni dovrei darle, se volessi vendere bene, cliente per cliente, quindi ripetendole 40 volte. Senti, invece così. Due domande secche. Se tu dovessi spiegare, diciamo, le basi, almeno insomma, le informazioni più importanti, essenziali dei TV oggi, per far capire ad esempio le differenze tra plasma e LCD, perché si vede meglio sul plasma che sull'LCD, il suono, abbiamo parlato prima di suono, quanto tempo ci vorrebbe? Un'ora, due ore, tre, 10 ore? No, io credo che in mezz'ora si possa fare molto. Mezz'ora con due o tre apparecchi funzionanti, perché alla fine non è questione di diventare professori di TV. Noi il TV dobbiamo vederlo e sentirlo. Il problema è che un orecchio o un occhio non educato alla qualità potrebbe non accorgersi di alcune cose. Certo. Se le si fa notare in maniera chiara, semplice, evidente, ci si accorge, e da quel punto in poi, da quel momento in poi, si sta attenti a quel tale aspetto. Sì, sì. In pochi, per esempio, ascoltano, come diceva anche Lamperti, l'intelligibilità dell'audio di TV. Allora proviamo a sentire, ma non un film con gli effetti speciali, appunto il telegiornale, un parlato, e sentire come si percepisce. Molte volte qualcuno dice, sbagliando, ma a me l'audio interessa poco perché tanto io ascolto a volume basso, poi c'ho i vicini di casa che mi danno fastidio, e invece è proprio quando si sente male che si alza il volume, perché se si capisce bene, il volume si tiene basso. Allora, una cosa di questo tipo basta dirla, e credo che chiunque effettivamente capisce che è sensata, che è proprio così, e allora di colpo sta più attento all'audio di quanto invece non fa, magari senza che qualcuno abbia stuzzicato questo tipo di curiosità. Sì. Qui si tratta di stuzzicare qualche curiosità in più e dare qualche spunto, non di trasformare tutti in tecnici, guai, non è questo né lo scopo né l'obiettivo del mercato. E guardate che quello che stiamo dicendo vale poi se lo moltiplichiamo e lo espandiamo per tutto il paese. Se fossimo molto più alfabetizzati tecnologicamente, beh, avremo sicuramente meno problemi a mettere in atto l'agenda digitale di cui parliamo purtroppo da anni senza fare praticamente nulla. Le aziende sarebbero più competitive, eccetera, eccetera, eccetera. Ultima domanda, ultimo minuto. C'è qualcuno che sta facendo questo che stiamo dicendo all'estero o anche in Italia? Si stanno vedendo alcune situazioni interessanti all'estero, qualcuno che ha aperto dei desk di consulenza, prevendita, di conseguenza cosa succede? Il negozio è, come ormai largamente è, a libero servizio, vado a scaffale e prendo quello che voglio. Se però ho qualche dubbio non vado a cercare il commesso, vado direttamente al desk di assistenza prevendita e pongo il mio problema e mi viene data una consulenza che può riguardare prodotti che sono a scaffale o anche no. È un investimento da parte del rivenditore, sicuramente. Alcune volte magari l'utente va e chiede delle informazioni e se le porta via, diciamo, gratis, senza magari far nessun acquisto, però in fondo si dice che molte volte si fanno i volantini, per esempio, su quali si fanno grandi investimenti per portare gente in negozio. Io credo che il fatto di dare della consulenza gratuita, prevendita, sia un buon motivo per portare della gente in negozio. Ovviamente è un servizio che va promozionato, che va spiegato, che bisogna dire che esiste, però chi lo assaggia, se la consulenza è adeguata, credo che poi ci incominci a prendere gusto e non abbia più dubbi su in quale negozio andare se ha bisogno di qualcosa. E quindi questa è una prima esperienza. Si sa, cioè se ne parla molto, che tutti i retail stanno cercando di riorganizzarsi per trovare una soluzione, ma come spesso accade, ma questa è un po' anche la storia dell'Italia in questo periodo, ci vorrebbero riforme, ma spesso non ci sono i soldi per farle, e quindi, o non ci sono i riformatori coraggiosi, non ci sono i riformatori. Quindi a questo punto probabilmente le riforme da visionari andrebbero fatte nei momenti di vacche grasse, non nei momenti di vacche magre. Bene, grazie a Gianfranco Giardina per essere stato con noi, buon lavoro e anche buone vacanze, anche se ci sentiamo durante le vacanze. Assolutamente, sempre presenti. E così noi concludiamo questa puntata, concludiamo anche la nostra stagione, ma saremo in onda già dalla prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24 con puntate di mezz'ora, quindi un po' più ristrette. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a Peter Bescape che si è occupato della parte tecnica, anche a Danita Panizza. Ci risentiamo la prossima settimana, potete raggiungerci via Twitter, Facebook o anche l'email 2024@radio24.it. 2024. 2024. 2024. 2024.